Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come i nostri GR24 vi hanno raccontato, i temi oggi si intrecciano con il tema più grave e più macroscopico dell'allarme terrorismo, non solo per quello che chiaramente è successo di nuovo a Londra, ma anche e soprattutto perché abbastanza sorpresa per alcuni c'è stata una presa di posizione durissima di alcuni stati del Golfo Arabico e nei confronti del Qatar. E qui il tema, ripeto, si intreccia con l'economia. Perché? Perché Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Yemen, Bahrain hanno interrotto i rapporti diplomatici e hanno dato 2 settimane di tempo a i catarioti presenti nei loro paesi per lasciare il paese. Decisione analoga sta prendendo appunto anche l'Egitto, ma quindi l'idea di una NATO araba, quella proposta da Trump nella missione di 2 settimane fa in Arabia Saudita, dove tra l'altro gli Stati Uniti firmarono con Riyadh, con l'Arabia Saudita, una mega fornitura in armi da 110 miliardi di dollari. Dicevo, l'idea di una NATO araba contro il terrorismo inizia già a saltare, quantomeno. Ma la cosa più importante, oltre che più interessante, è la reazione da un lato dei mercati, dall'altro anche il ricordare tutte le partecipazioni che il fondo sovrano del Qatar. Il Qatar ha costruito un impero attraverso il gas naturale, di cui è il primo, ha una ricchezza pro capite che è la più alta al mondo, anche perché sono 2 milioni di abitanti. Per cui, ma il fondo sovrano del Qatar ha comprato in questi anni, complice anche la crisi dal 2008 in poi, partecipazioni importantissime in Europa. Penso a Credit Suisse, penso a Barclays, penso anche a Deutsche Bank per quello che riguarda il lato finanziario. Poi, nel caso specifico di Milano e dell'Italia, ci sono importantissime partecipazioni, in alcuni casi anche al controllo totale, penso al 100% dell'area Porta Nuova a Milano, ma anche il 49% di Meridiana, che detiene Qatar Airways, altre partecipazioni di marchi, Valentino, rilevato nel 2012. Le reazioni finanziarie sono state due sostanzialmente: il crollo della borsa del Qatar, che ha perso il 7,3%, reazione più rientrata tra virgolette sul prezzo del petrolio, perché dopo la notizia aveva fatto un balzo a 48 dollari il WTI, a 50 il Brent, poi ripiega addirittura. Adesso il WTI è in calo dell'1%. Le borse a questo punto, oggi Francoforte è chiusa, quindi per quello che riguarda Parigi meno 0,60, Londra meno 0,25, Dow Jones invariato, Milano meno 0,80%. Da questo punto di vista, a chi mi chiede già dello spread, lo spread è stabile ma sempre altino, intorno ai 200 punti. Da questo punto di vista, i titoli che vanno peggio si chiamano Mediaset meno 3,40, Recordati meno 2,80, Banco BPM meno 2,5, Saipem meno 2, Banca Generali meno 1,90 come Unipolsai, Buzzi Unice meno 1,80, Poste meno 1,70 come Telecom, 1,5 lo perde Generali e anche Biper Banca e Italgas. Dicevo, le borse sono deboli, ma stanno seguendo, come vedete anche dall'andamento complessivo dei vari indici in Europa, seguono anche loro diciamo, andamenti, oltre che Francoforte, specifico che chiusa anche Zurigo. La Spagna vede una forte tensione sul Banco Popolar, che è una vicenda analoga a quella delle di alcune banche italiane, Monte dei Paschi e poi le Venete e le quattro banche famose. Dicevo, il Banco Popolare non riesce a trovare risorse fresche per coprire le perdite. Il titolo è arrivato a calare anche del 15%, perché il timore è che scatti il bail-in sul Banco Popolare. Per riflesso, c'è un po' di riflesso anche in Italia, ma non è un riflesso, diciamo, massiccio. L'euro su dollaro è sempre a quota 1,12,50. Parleremo di questo anche di Alitalia, nel senso che alle 18 i commissari dell'Italia apriranno le buste con i nomi dei pretendenti per la compagnia. Scadono infatti i termini per le manifestazioni di interesse. Dopo la rinuncia aperta, apertissima, di Ryanair e Norwegian, che tra l'altro quasi in contemporanea ha annunciato lo sviluppo della rotta a prezzi bassissimi Roma-New York, Newark. Dicevo, oltre a Norwegian e anche Lufthansa si è sfilata, le indiscrezioni vedono per ora come possibile candidato solo o principalmente l'americana Delta Airlines. Certo che le manifestazioni di interesse potrebbero arrivare anche da fondi di private equity, che lo farebbero in un'ottica più da fondo di investimento. Allora, sì, qualcuno mi scrive, insomma, lo Yemen e l'Arabia Saudita che danno dei terroristi al Qatar sembra una barzelletta, perché sappiamo che dall'Arabia Saudita e tutta, diciamo, la dottrina wahabita è nata Al-Qaeda, ma è nato anche molto integralismo di carattere islamico, e lo Yemen, sì. Allora, infatti lì il problema è capire anche che cosa, perché si sia arrivati a una decisione così forte anche nei tempi, perché 15 giorni per espatriare sono un elemento veramente, sono un tempo veramente breve. Comunque dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, questi i temi di cui parleremo. Ultimo tema che non ho citato invece, gli ultimi due temi che non ho citato, l'Ilva, perché oggi insomma è il giorno definitivo, c'è attesa per il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui verrà ufficializzato il nuovo proprietario, quindi AM Investco, la cordata costituita da ArcelorMittal e Gruppo Marcegaglia con il supporto di Intesa San Paolo, che ha messo sul piatto 1,8 miliardi. C'era stato un rilancio di Acciaio Italia, ma il ministro Calenda ha chiarito che le procedure di gara non si cambiano in corsa o peggio ex post, cioè una volta già assegnata la gara. Per quello che riguarda l'ultimo tema, sempre i mercati nei confronti della nostra agenda politica, diciamo così, perché più passa il tempo, fummo facili profeti, più da diverse parti si fanno sentire le voci di chi dice: ma è proprio necessario, benissimo la riforma della legge elettorale, è propedeutica a qualunque elezione, ma è proprio necessario arrivare ad elezioni a settembre-ottobre in piena legge di stabilità e con il rischio di un esercizio provvisorio se non ci sarà una maggioranza stabile, perché non arrivare alla scadenza naturale? E queste obiezioni sono nate soprattutto sul fronte degli investitori e di chi ci guarda dall'estero, ma devo dire che leggendo i giornali in questo fine settimana si notano, non dico sponde, ma opinioni analoghe anche da altri punti di vista. Cioè, nulla, non è tanto una valutazione sulla legge elettorale, quella è una decisione dei partiti e deve avere il massimo consenso possibile in Parlamento. Il problema è se la fretta di portare poi il paese a elezioni quando c'è una scadenza naturale nella primavera dell'anno prossimo. Questa è, ripeto, non è un mio giudizio, questa è la cosa che non viene compresa da chi ci guarda da fuori. Poi uno può essere d'accordissimo nell'andare alle elezioni a settembre o ritenere di far fare una legge di stabilità e poi andare alle elezioni ad aprile con maggior margine. Razionalmente avrebbe più senso questo. Poi so benissimo, perché me lo scrivete, magari il PD non vuole andare alle elezioni dopo una legge di stabilità che sarà molto pesante pur con un miglioramento dell'economia che abbiamo raccontato la settimana scorsa. Sì, ho capito, però poi se fai elezioni a settembre devi comunque fare la legge di stabilità, e proprio perché sarà pesante vorrei capire quale partito si accolla l'onere di partecipare a coalizione, si accolla l'onere di una legge di stabilità così pesante. Comunque, dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, rapidamente le altre notizie in breve. Qualcuno poi mi scrive sulla Juventus in borsa. Sì, beh, è chiaro che la sconfitta secca di sabato sera pesa anche sul titolo, perde l'11,30%, è il peggior titolo in borsa assieme a Gambero Rosso, che molto era cresciuta la settimana scorsa, che perde l'11,70%. Di petrolio abbiamo detto, e invece per quello che riguarda la Borsa di Madrid, Banco Popolare, ripeto, domani ci sarà forse un vertice alla Banca Centrale Europea per evitare il rischio bail-in. Che cosa è successo? Il Banco Popolare non sta trovando i soldi per coprire le perdite, ha già perso la settimana scorsa il 40% in borsa, c'è appunto un vertice previsto per domani alla Banca Centrale Europea. Ha chiuso il 2016 con un rosso di 3,8 miliardi di euro, con 35 miliardi di non performing loans, di sofferenze bancarie, e non ha trovato acquirenti, perché le tre grandi banche spagnole, Banco Bilbao Vizcaya, Santander e Bankia, hanno ribassato quasi a zero la loro offerta. Senza compratori, l'istituto dovrebbe ricorrere al bail-in, azzerando nell'ordine azionisti, detentori di bond convertibili per 1,250 miliardi, bond subordinati per 700 milioni, quindi siamo già a 2 miliardi solo di obbligazioni, e forse anche i senior e i depositi sopra i 100.000 euro. Però i media spagnoli ipotizzano una soluzione simile a quella concordata fra Italia e Unione Europea per la vicenda Monte dei Paschi, quindi perdita solo per alcune classi di investitori e intervento dello Stato. Sì, vedo che molti mi dicono: ma guardi che Gentiloni non sta facendo male. Guarda, ma non è un giudizio politico, così come ha ragione chi scrive non c'è niente di naturale in questo governo perché non è un governo eletto. Siamo d'accordo, ma infatti secondo me un'ipotesi di quadratura del cerchio può proprio essere quella di dire: ma figuriamoci, andiamo a elezioni, fate la legge elettorale. Il punto è che se si è arrivati tardi a un accordo, non è colpa, per carità, dei partiti, ma non è colpa neanche degli italiani, non è colpa neanche dei mercati, non è colpa di nessuno. Se sta legge elettorale si continua a parlare, si sta delineando un accordo sempre più forte tra Forza Italia, PD e 5 Stelle su quel progetto di legge elettorale, tra virgolette, simil tedesco, perché manca la fiducia costruttiva che c'è invece in Germania. La sfiducia costruttiva, cioè tu puoi far cadere un governo in Germania solo se c'è un altro governo pronto. Senza sfiducia costruttiva tu rischi di avere uno stallo, ma soprattutto, anche ammettendo che non è colpa di nessuno se si è arrivati a giugno a definire un accordo sulla legge elettorale, beh, non è neanche colpa dei mercati, quindi non ti devi neanche sorprendere se da fuori dicono: beh, vabbè, adesso avete trovato l'accordo, e perché elezioni a settembre-ottobre in piena legge di stabilità? Perché non fare le elezioni a febbraio, marzo, aprile, come da scadenza naturale? Dunque, questi temi, partiamo con i 100 secondi di Radio 24 che ci portano direttamente al primo tema di apertura, quello che è successo nella penisola arabica, appunto dopo la decisione di Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Yemen e Bahrain di interrompere tutti i rapporti diplomatici con il Qatar. I 100 secondi, ricordo che sono trasmessi anche su RDS e oggi sono a firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. È in corso un terremoto nei paesi arabi. Gli attentati a firma dell'ISIS in Gran Bretagna provocano ripercussioni politiche in tutta la regione. Egitto, Arabia Saudita, Emirati e Bahrain hanno annunciato lo stop dei rapporti diplomatici con il Qatar, in seguito a crescenti tensioni tra i paesi del Golfo proprio riguardo al presunto appoggio qatarioto ai gruppi islamisti. Le quattro nazioni arabe, cui si è aggiunto anche lo Yemen, hanno stabilito il ritiro del loro personale diplomatico dal Qatar, che ricordiamo è una nazione ricca di gas, Dallas e ospiterà i mondiali di calcio del 2022, nonché hanno annunciato di voler tagliare il traffico aereo e marittimo verso il paese peninsulare, tentando così di farne collassare l'intera economia. Teniamo conto che già il bando è applicato da Etihad ed Emirates. Inoltre l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e il Bahrain hanno decretato l'espulsione di tutti i cittadini qatarini, dando loro 14 giorni per partire, ordinando anche ai cittadini che si trovano in Qatar di passaggio come residenti di lasciare immediatamente il paese. È una decisione che colpisce anche perché arriva pochi giorni dopo il viaggio del presidente Trump in Arabia Saudita. Ora l'accusa al Qatar è quella di intrattenere i rapporti fin troppo buoni con l'Iran, considerata da sempre l'avversario principale dell'Arabia Saudita per il controllo del greggio. La nuova linea anti-Teheran degli Stati Uniti ha una ricaduta quindi negli equilibri dei paesi arabi, ma per gli USA potrebbe verificarsi una situazione di instabilità inedita e non voluta, visto che il quartier generale americano in Medio Oriente, il CENTCOM, ha sede proprio in Qatar. È l'ennesima riproposizione in realtà del regolamento di conti tra il mondo sunnita degli Emirati e gli sciiti di Teheran, che non potrà non avere conseguenze anche da noi. Un esempio? Forse in pochi ricordano che il quartier generale dei grattacieli di Milano, che è il nuovo vanto della skyline cittadina, è proprio del Qatar. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, giustamente Alberto Arioli ricordava, come facevo io anche in apertura, le partecipazioni del Qatar in Italia. I grattacieli sono quella più evidente, Valentino e anche Paul Zileri, dei investitori qatarioti che controllano anche Paul Zileri, hanno rilevato Valentino nel 2012, gli hotel di lusso a Milano, il Gallia, All Four Seasons di Firenze, dove Matteo Renzi ha insediato parte del suo quartier generale. Ma al di là di questo, Costa Smeralda, tantissime partecipazioni, e appunto Qatar Airways ha il 49% di Meridiana, in Alca, nel settore alimentare, e poi Volkswagen, il Qatar ha il 17% di Volkswagen, il colosso russo Rosneft, il Qatar ha il 10%, il colosso anglo-olandese dell'energia Royal Dutch Shell, il 2%, possiede il Paris Saint-Germain, a chi interessa il calcio, ha almeno 35 miliardi di dollari di investimenti immobiliari in Gran Bretagna, quote nei magazzini Harrods, il 20% dell'aeroporto di Heathrow, primo investitore in Gran Bretagna in Sainsbury, e tra l'altro Qatar Airways ha il 20% della holding che controlla British Airways, Iberia, Aer Lingus. Poi sul fronte bancario ha il 6% di Barclays, e poi entrò in Credit Suisse, in tempi recenti è entrato anche in Deutsche Bank, dove punta a superare il 10%. Questo grazie appunto al fatto che il Qatar è il primo esportatore mondiale di gas naturale e ha un PIL pro capite tra i più alti al mondo. Come veniva però ricordato sempre dai 100 secondi di Alberto Arioli, il tema più che la lotta all'ISIS, anche perché continuano a scrivermi gli ascoltatori al 349-238-6666, ma insomma, la lotta all'ISIS fatta da paesi che da sempre hanno, sono accusati di fiancheggiare non fiancheggiare i paesi, ma di avere dentro di sé, no? Un affiancheggiamento ai terroristi, prima Al-Qaeda e poi ISIS, mi riferisco a Arabia Saudita e Yemen in primis. Poi c'è il tema della lotta commerciale con Qatar Airways, sappiamo che in quell'area combattono una lotta durissima. Da un lato Emirates contro Etihad e contro Qatar Airways. Doha si è proposta ancora più di Abu Dhabi come la vera alternativa a Dubai. Però la domanda è molto semplice per Roberto Bongiorno del Sole 24 Ore. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti. Hanno anche Manchester City, sì, vado a memoria in questo caso, però hanno anche Manchester City. La domanda è molto semplice, dicevo, ma questa è un'operazione anti-Iran in cui, per carità, lo scontro sunniti-sciiti va avanti, appoggiati diciamo dalla nuova linea degli Stati Uniti, tutta in chiave anti-iraniana, fermo restando che, io devo dirlo, non ne frega nulla né dell'Iran né del Qatar, ma il terrorismo ISIS come Al-Qaeda era tutto di matrice sunnita, non sciita, cioè tutto di matrice dell'area del Golfo, i Wahhabiti. Poi che lì ci sia uno scontro in Iran, non ho mica detto che dire. con l'Iran per motivi religiosi non solo e di produzione del petrolio, ma insomma, l'Iran piace poco per essere buono negli Stati Uniti. Faccio notare che l'origine Al-Qaeda è tutta all'interno del mondo wahabita, della deriva wahabita saudita, e anche i rapporti, diciamo, con il fondamentalismo islamico dell'area, sempre in chiave anti-iraniana, mi riferisco all'Iraq, non è che proprio lasciano così uno stato di grande verginità a quei paesi. Quindi la decisione è in chiave anti-iraniana o invece c'è dell'altro sulla chiave antiterrorismo? Ma la risposta potrebbe essere una, due oppure tre. Come tu hai detto bene, hai sottolineato tutti gli interessi del Qatar, che nel mondo economicamente sono legati ai petrodollari o ai gas dollari, interessi che danno fastidio ai paesi vicini al Qatar. Che cosa sta succedendo in questa zona del mondo? Beh, di fatto è in atto, in corso, un'esacerbata e accelerata dopo le primavere arabe, una contrapposizione tra il blocco cosiddetto sciita, cappeggiato dall'Iran, che è la roccaforte sciita del mondo, e quello sunnita, che è dell'Arabia Saudita, che è la roccaforte dell'Islam wahabita, un Islam molto radicale. Però che cosa succede? È religiosa fino a un certo punto. Come al solito l'economia interviene in queste diatribe. L'Arabia Saudita è uno storico rivale dell'Iran perché pretende, forte anche dell'appoggio di cui ha sempre goduto da parte degli Stati Uniti, di avere la potenza di candidarsi come potenza regionale del Golfo. Ora, l'Arabia Saudita è un paese di 28-30 milioni di abitanti, alle prime riserve petrolifere del mondo, ma l'Iran da parte sua è un paese di 80 milioni di abitanti con un'economia più diversificata. Cosa è accaduto? Che mentre il blocco iraniano si è dimostrato molto più solido e compatto, l'Iran può, è alleato comunque in un certo modo dell'Iraq, paese a maggioranza sciita, comunque con gli Hezbollah, con la Siria, anche se c'è la minoranza alawita di Assad al potere, una monolite, una coalizione monolite. Dall'altra parte i sunniti sono sempre stati molto divisi e frammentati da rivalità interne, soprattutto dopo lo scoppio della primavera araba. Per riassumere, si può dire che laddove il Qatar puntava a difendere la fratellanza musulmana, l'Egitto, per esempio, dopo del presidente al-Sisi, dichiarava i fratelli musulmani un movimento terroristico. L'Arabia Saudita, che aveva paura di un crescente malcontento e una possibile primavera araba al suo interno, ha sposato la linea egiziana e così via. E lo stesso è accaduto anche in Libia, un po' dappertutto. Quindi il mondo sunnita si è sgretolato e non sanno a questo punto nemmeno più chi sia terrorista e chi non lo sia. I fratelli musulmani non lo sono per il Qatar e lo sono per l'Egitto e adesso anche per l'Arabia Saudita. Ecco, le conseguenze di questa decisione a sorpresa, ma ripeto, a sorpresa soprattutto per le conseguenze immediate, dare 2 settimane di tempo ai vari residenti e visitatori per uscire da questi paesi, insomma, è una cosa che ricorda un passaggio, non voglio dire altro, ma insomma, uno dei massimi livelli possibili a livello diplomatico di scontro. Che cosa, tra l'altro, l'Arabia Saudita nel comunicato diffuso oggi è stata molto secca. Il Qatar sostiene e protegge numerosi gruppi terroristici che minano a destabilizzare la regione, come i fratelli musulmani, l'ISIS e Al-Qaeda. Quindi non ha citato la componente sciita, mentre il Qatar risponde: vogliono mettere sotto tutela il nostro Stato. È l'obiettivo evidente della decisione saudita, dal Bahrain agli Emirati Arabi Uniti, presa in coordinamento con l'Egitto. E tra l'altro ci sono già le prime espulsioni da alcuni di questi paesi. L'Egitto ha espulso direttamente l'ambasciatore qatariota, ha 48 ore di tempo per lasciare il paese. Poco fa gli Stati Uniti hanno detto però che l'aeronautica militare americana continuerà a compiere raid anti-ISIS dalla base statunitense nel Qatar. E poi il portavoce statunitense ha detto: occorre trovare una soluzione comune che garantisca la sicurezza dell'area. Siamo grati al Qatar per il sostegno di lungo termine alla nostra presenza. Emirates ha sospeso tutti i voli verso il Qatar e anche Etihad, e poi Fly Dubai ha annunciato la stessa cosa, per cui sostanzialmente c'è anche un problema di carattere molto economico in questo momento per chi usava Doha come hub, perché Doha è un hub tanto grande quanto non dico quanto Dubai, ma ci va vicina, e forse adesso vado a memoria, più grande anche di Abu Dhabi come importanza. Detto questo, le ricadute sul fronte economico e che cosa potrebbe capitare agli altri paesi dove Qatar ha investimenti importanti, perché come mi scrivono alcuni ascoltatori, bene, se adesso i paesi arabi decidono che Qatar appoggia l'ISIS, Al-Qaeda e i fratelli musulmani, noi cosa facciamo con il Qatar? Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. :17:39, giustamente poi alcuni fanno notare che il Qatar ospiterà i mondiali di calcio del 2022, già lì ci furono molte polemiche per gli orari, visto... Vabbè, ma da qua al 2022, mi sa che un po' di tempo a Doha, un po' di tempo c'è. L'interscambio commerciale tra Italia e Qatar è 1 miliardo, vale 1 miliardo e 700 milioni, dati del 2016. Siamo alla pari, nel senso c'è un leggero vantaggio nell'attivo di bilancio nostro per 60 milioni di euro. Noi esportiamo in Qatar 900 milioni di euro, ne importiamo 840. Però ripeto, il ruolo del Qatar è più che altro per il fondo sovrano, con la lista che ho letto prima di tutte le partecipazioni che ha in Europa. E a questo proposito, Roberto Bongiorni, che cosa potrebbe capitare? Nel senso che o l'Europa fa finta di niente e dice sono partecipazioni finanziarie, grazie, arrivederci, oppure prende atto che i paesi dell'area dove gli Stati Uniti hanno appena investito, diciamo, firmato un accordo da 110 miliardi di dollari per fornitura di armi con l'Arabia Saudita, ritengono che il Qatar sia, diciamo, l'epicentro del fiancheggiamento, cosa che ha scritto proprio, a ISIS, Al-Qaeda e fratelli musulmani. Beh, innanzitutto volevo precisare quanto tu avevi ben spiegato, nel senso che a parte il fatto che si parla di terrorismo, ma terrorismo di chiave sunnita e non sciita, e quindi iraniano, e qui invece viene accusato l'Iran di fiancheggiare l'Iran. Ma il Qatar di fiancheggiare l'Iran. Sì, il Qatar, chiedo scusa. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, verrebbe da dire. E noi dobbiamo, se andiamo indietro solo di qualche anno, la stessa Arabia Saudita era stata accusata attraverso le sue famose charity organization, cioè non direttamente ma indirettamente, di finanziare movimenti qaedisti. C'erano state queste accuse. E le famose banche del Kuwait, attraverso cui transitava questo denaro che affluiva, sembra, anche nelle casse dell'ISIS. Ora, questi paesi hanno stretto le maglie e si sono distaccate, ma hanno un passato piuttosto ambiguo. Detto ciò, il problema non si pone per ora, perché sembra che sia molto rumore per nulla. È come quanto sta succedendo in campo energetico, se volete poi ne parleremo, ma se questo gruppo di paesi del Golfo annuncia un embargo delle sanzioni, sembrerebbe una mossa un po' frettolosa e che rischia di essere un boomerang, perché l'economia è molto interconnessa e per ora i paesi occidentali, ma anche asiatici, che hanno grandi assets a partecipazione del Qatar, non devono seguire le direttive di questi paesi, perché è una questione puramente regionale, quindi questo è il fatto. E, come dicevo, anche sul punto di vista energetico si parla di una zona dove ci sono il 40% delle riserve petrolifere, eppure il petrolio fino a 2 ore fa addirittura scendeva dopo essere saltato un pochettino in avanti. Questo che cosa significa? Significa che se ci saranno delle conseguenze, saranno delle conseguenze tra questi due blocchi contrapposti, ma che non andranno ad intaccare sostanzialmente, a meno di eventi imprevedibili, gli interessi occidentali. Gli stessi Stati Uniti, tra l'altro, sono intervenuti per cercare di conciliare le parti e non permettere le une contro le altre. Allora, stiamo a vedere, fai notare giustamente che dopo una piccola fiammata iniziale più 2%, il petrolio adesso risulta anche in calo, quindi forse si fanno calcoli meno emotivi. Grazie intanto a Roberto Bongiorni, e questo però ci porta a commentare anche la seduta di borsa, che per quello che riguarda l'Europa è priva oggi di Francoforte e Zurigo chiuse. Sì, qualcuno mi fa notare che vi sono anche molte imprese italiane occupate sul fronte, diciamo, energetico in primis, ma non solo, anche nelle costruzioni in Qatar. Però lì in questo momento non c'è, non capita nulla. Il problema, a mio avviso, è più di così trovare anche un equilibrio a livello politico, perché poi diventa nel medio termine insostenibile. Come i paesi del Golfo dichiarano uno stato fiancheggiatore e noi invece, diciamo, non abbiamo nessun problema con questo stato, e diventa anche insostenibile con le campagne elettorali in corso, la prima che adesso si chiuderà è quella britannica, ma poi c'è quella tedesca, c'è quella austriaca, ci sarà forse quella italiana entro l'anno, per cui insomma sono elementi delicati in questa fase, oltre che, diciamo, di carattere economico. Comunque la borsa, al di là del Qatar, meno 1% Milano, meno 0,70% Parigi, Francoforte appunto è chiusa, Dow Jones invariato, Londra meno 0,30%, euro su dollaro 1,1252, oggi negativa soprattutto Mediaset meno 3,51%, nonostante il record di ascolti per la finale di sabato sera persa dalla Juventus. E allora, per quello che riguarda il commento, Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, Andrea, partiamo dal Banco Popolare, il meno 14% che ha registrato la Borsa di Madrid. C'è stato un riflesso in Italia, oppure uno può anche dire, beh, se va in Belino, rischia il Belino, una banca così importante in Spagna, forse così può esserci un aiuto anche per la nostra posizione verso Bruxelles. No, beh, sicuramente c'è stato un riflesso generale di preoccupazioni, anche se poi alla fine diciamo Madrid non è stata una delle borse peggiori, anzi ha chiuso appena sotto la parità, mentre Milano ha perso in maniera più significativa. Qui qualche analista faceva appunto vedere come i temi legati alle prospettive di rischio politico, così come viene chiamato, finiscono per pesare sull'Italia e sulle banche un po' di più del tema Banco Popolare, anche se non bisogna dimenticare che c'è sempre aperta il tema delle banche venete, e questo per esempio lo si vede su un titolo come Poste, che quando viene coinvolta in rumors, in discrezioni di coinvolgimento del salvataggio delle banche venete, subito paga dazio sul mercato, tant'è vero che ha perso il 2%. In generale oggi è sembrata una giornata anche sulle banche e non di cautela, in attesa di un giovedì molto importante dove ci sono BCE, elezioni inglesi e la testimonianza dell'ex capo dell'FBI al Senato americano, quindi una giornata magari di particolare volatilità, per cui oggi freno tirato a Milano come anche in altre borse. Sì, su questo vediamo i titoli bancari: Banco BPM meno 2,70, Banca Generali meno 2,20, Unipolsai meno 2, Poste l'hai già ricordato, Biper Banca meno 1,80, Unipol meno 1,60, Generali meno 1,40%, come Unicredit, Intesa San Paolo perde l'1,30%. Peggior titolo Mediaset meno 3,51%, poi anche Recordati perde il 3,14%, Mediaset. Contano i giorni su quelle che, in attesa delle mosse di Vivendi, entro il 18 di giugno Vivendi dovrà comunicare all'autorità delle comunicazioni come intende ottemperare agli obblighi che l'autorità della comunicazione le aveva dato per la violazione della concentrazione, delle norme sulla concentrazione tra TLC e media, vista la sua presenza sia in Mediaset che in Telecom Italia. Oggi De Puy Fontaine, parlando a Roma, ha detto che presto ci sarà un incontro in Agicom per illustrare la posizione del gruppo francese, però è chiaro che già dal provvedimento antitrust dell'UE su Telecom dei giorni scorsi è venuta un po' meno quella che è l'attesa speculativa di una mossa forte di Vivendi su Mediaset, quindi l'attesa è che quantomeno il gruppo congeli le sue posizioni in vista dell'assemblea degli azionisti di Mediaset. Venendo un po' meno l'appeal, il titolo sta andando incontro a forti vendite, meno 15% circa in una settimana per Mediaset. Gli altri titoli dopo il traffico: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Focus Economia. 17:52 minuti. Per quello che riguarda il resto della borsa, vorrei citare, al di là della Juventus di cui abbiamo già detto, Mer Tecnimont, che ha firmato un accordo importantissimo venerdì in Russia, quasi 4 miliardi di euro per un impianto a gas, e il titolo reagisce bene, chiaramente. Sì, ha reagito più 6,5%, come dicevi, un contratto importante con Gazprom per la realizzazione di un impianto a gas nel territorio russo, analisti positivi, e soprattutto perché l'attività è concentrata nei primi 2 anni, anche se il completamento poi è previsto per il 2023, quindi diciamo sarà possibile subito quantificare, certo, la bontà dell'impatto del contratto. Gala è il miglior titolo, più 36,88%, i peggiori abbiamo già detto: Juventus meno 12, Gambro Rosso meno 9,34%, Expert System meno 6,56%, bene anche Bion più 9,40%, Intec Group più 9,35%, sull'S&P MIB il migliore invece è stato Brembo più 1,30%, l'unico positivo. Grazie ad Andrea Fontana. Adesso ci spostiamo su Alitalia, perché tra pochi minuti dovrebbero essere aperte le buste con le offerte di tutti quelli che vorrebbero o che sono interessati a rilevare la nostra ex compagnia di bandiera. Uso il condizionale perché forse non avremo grandi notizie da questa apertura delle buste. Chiedo verifica a Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Buonasera Giorgio. Sì, buonasera. Sì, io sono stato proprio oggi alla sede del notaio alle 6, scadeva appunto il termine per la, quindi adesso proprio sta per scadere il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse non vincolanti, però appunto essendoci l'obbligo di riservatezza sia ai commissari di Alitalia che anche poi i vari studi di avvocati che presentavano, diciamo, le offerte per conto dei loro clienti, avevano tutti le bocche cucite, e questa sera, diciamo, ufficialmente non uscirà fuori nessun nome, quindi sarà poi, diciamo, circoleranno nomi ma non avranno, diciamo, il carisma del, diciamo, non ha dell'ufficialità, ecco. Giorgio, però tu stesso avevi scritto alcune indiscrezioni come compagniere dopo che si sono sfidate Norwegian, Lufthansa e tutte le altre. L'unica, se ho ben capito, che potrebbe essere Ryan, l'unica che potrebbe essere interessata è Delta Airlines, ma ci sono anche grandi fondi di private equity, i quali però entrerebbero solo per che cosa? Allora, attenzione, c'è da dire che stiamo parlando di manifestazioni di interesse non vincolanti, quindi presumibilmente avremo parecchi che si faranno avanti anche solo per, come dire, avere, venire a conoscenza anche, per esempio, solo per dirne una, di dati. Certo. No? Perché si apre subito dopo la data Roma, anche se, diciamo, le informazioni più sensibili non verranno date in questa fase, però diciamo è chiaro che anche da parte dei competitor ci sarà interesse. Quindi sostanzialmente, cioè, questa fase è ancora, diciamo, una fase ancora embrionale. Certo, per cui uno può... Esatto, si fa avanti anche solo per sondare, capire se può avere qualche informazione in più dalla data room. Certo. Ti suggerisco un'ipotesi che avanzano gli ascoltatori, così chiudiamo il cerchio con l'apertura del programma di oggi. E se fosse Qatar Airways a fare un'offerta sull'Italia, così, così riparte la guerra contro Etihad dopo quello che è successo? Chiaramente è una battuta, e come tale la leggo prima che iniziano a scrivermi cosa avete detto, Qatar Airways interessata. No, è che abbiamo aperto, diciamo, gli approfondimenti su quanto accaduto nella penisola araba, e quindi la battuta ci stava tutta. Giorgio, hai chiarito molto bene che vedremo se al massimo arriveremo a indiscrezioni. Grazie anche a Giorgio Pogliotti. Andiamo su GR24 e poi ci occupiamo invece di Taranto, cioè dell'Ilva, che vuol dire anche Genova, dico sempre Taranto, insomma, che non ha nessuna indiscrezione, nel senso che oggi viene ufficializzata l'acquisto, il tema di come ci guardano gli investitori, non tanto e non solo i mercati, ma gli investitori, e quindi il tema elezioni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sul fintech, i nuovi sistemi di pagamento, le monete digitali e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per quello che riguarda gli altri due temi che mancano in questa puntata, partiamo subito dall'IVA. Mentre vedo che hanno rinviato il consiglio di amministrazione della RAI previsto per domani, quindi evidentemente c'è ancora molta incertezza su chi dovrà prendere il posto di Campo Dall'Orto, che, lo dico ai nostri ascoltatori, che spesso fanno notare giustamente i stipendi dei manager, se n'è andato in maniera senza cercare di arrivare a scadenza e senza prendere la buona uscita. Ogni tanto, quando qualcuno lo fa, nei manager pubblici, ricordiamolo. Comunque vedremo cosa capiterà alla RAI. Invece quello che dovrebbe essere ormai certo è il decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ufficializzerà il nuovo proprietario del gruppo siderurgico Ilva, e quindi AM Invesco, la coordata costituita da ArcelorMittal, quindi il colosso indiano dell'acciaio, e il gruppo Marcegaglia con il supporto di Intesa San Paolo. Sabato scorso l'altra cordata, quella di Acciai Italia, che dentro aveva Arvedi, Cassa Depositi e Prestiti del Vecchio, ha rilanciato offrendo 1.850 milioni contro 1.800 milioni offerto dal gruppo Invesco, AM Invesco, e quindi ha rilanciato offrendo 650 milioni in più rispetto alla sua offerta iniziale. Acciai Italia aveva offerto infatti 1.200 milioni. Con quasi 5 miliardi di investimenti totali, l'impegno ad assumere da subito 9.800 dipendenti, di cui 2.000 per gli investimenti ambientali e industriali. La precedente offerta prevedeva 7.800 posti contro i 9.400 offerti da AM Invesco, che però intende ridurre il totale a 8.400 entro il 2023. Per gli interventi ambientali il compratore, quindi AM Invesco, avrà a disposizione anche 1.100 milioni del 1.300 milioni di euro, che è il frutto del patteggiamento tra Adriano Riva e il Tribunale di Milano firmato nelle settimane scorse. Il rilancio l'ha bocciato già il ministro Carlo Calenda, che ha detto che le procedure di gara non si cambiano in corsa o peggio ex post, e poi non conforme, è ritenuto non conforme perché porta solo le firme di Jindal e della Delfin, mentre Cassa Depositi e Prestiti e Arvedi si sono sfilati dalla cordata. Jindal, Southwest e Delfin sarebbero pronti a rilevare le quote degli altri soci, però mi sembra, e chiedo conferma a Domenico Pagnotti del Sole 24 Ore in collegamento da Taranto. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano. Mi sembra che la dichiarazione di Calenda metta fine a qualunque ipotesi di rilancio. Sì, la dichiarazione di Calenda è molto netta e molto chiara, e arriva al termine di una giornata, quella di sabato, che è stata abbastanza convulsa, dove Acciai Italia, una volta visto che l'Avvocatura dello Stato aveva detto che non erano consentiti rilanci solo sulla parte economica, ha rilanciato, come dicevi tu, su tutti i fronti. Ha rilanciato l'offerta economica, ha rilanciato sugli investimenti, ha rilanciato sugli occupati, dicendo di assumere subito dal prossimo anno 9.800 dipendenti, tendendo appunto a qualificare l'insieme dell'offerta come migliore rispetto a quella di AM Investico Italy. Però non mi pare che la situazione sia sostanzialmente modificata, perché ieri, per esempio, e anche oggi da Matera è intervenuto il ministro Claudio De Vincenti, titolare della delega del Mezzogiorno, che ha detto appunto che questa vicenda va chiusa. Anzi, ieri De Vincenti era stato molto più netto, aveva detto: questa è una vicenda seria che non può essere gestita con approssimazioni. Quindi i due ministri considerano già chiusa la partita. Sino a questo momento il decreto, la firma di Calenda sul decreto ancora non c'è, il decreto è atteso in giornata, potrebbe slittare anche a domani, perché il Ministero dello Sviluppo Economico vuole limare per bene il testo, vuole fare un provvedimento sicuro e quindi sta ricorrendo anche ad una consultazione suppletiva con l'Avvocatura dello Stato, perché si teme che una volta aggiudicata l'Ilva, la cordata concorrente possa rilanciare una nuova offensiva. Ci sono per esempio alcuni ambienti vicino al dossier che non escludono un'impugnativa alla giustizia amministrativa del decreto di aggiudicazione, e quindi il MISE vuole un attimo premunirsi e vuole usare la massima cautela. Ancora oggi Acciaia Italia è tornata all'offensiva, ha mandato ancora un'altra lettera a Calenda e ai commissari dicendo: guardate che la nostra offerta è l'unica che vi permette di chiudere l'operazione, il cosiddetto closing, in modo certo e affidabile. Con l'offerta di Acciaia Italia non ci saranno problemi con l'antitrust, perché c'è un altro tema all'orizzonte, il fatto che l'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal possa portare un esubero rispetto alle quote produttive, possa creare in ArcelorMittal una posizione dominante nel mercato a livello europeo, in questo caso ArcelorMittal dovrebbe tagliare da qualche parte per rientrare nei limiti, ma ArcelorMittal da un lato ha già detto che, sommando le sue produzioni a quelle di Ilva, questo rischio non c'è, e quando anche ci fosse ha detto dismetterò altri stabilimenti e non certo in Italia. Però il pressing di Acciaia Italia su questo fatto, sull'avversario nel contrastare l'offerta e nel mettere in luce quelle che ritiene essere le criticità della cordata, dell'altra cordata, dimostrano come sia una partita molto incalzante e molto agguerrita. Sì, devo dire che allora a me non me ne frega nulla delle due cordate, però è ovvio che se c'è una gara e tu la gara la fai appunto con un progetto, non è che poi puoi rilanciare a gara chiusa dopo che hai visto l'offerta dell'altro aumentando di 50 milioni e sull'occupazione. Lo dico perché il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico al Politecnico ha detto: noi ci prendiamo tutto l'inquinamento dell'Ilva, tutti i rischi, i morti, il dolore, ma non abbiamo la possibilità di dire una parola. È una cosa inconcepibile e inaccettabile. La Regione Puglia in materia di Ilva non può parlare, non siamo neanche ammessi a discutere dell'offerta di acquisto. E io faccio i comunicati in maniera tra virgolette abusiva, perché in realtà secondo la legge la Puglia non dovrebbe dire una parola. Poi però Emiliano aggiunge: hanno paura dell'offerta di Jindal perché è un'industria innovativa che mantiene alti livelli di occupazione, possa scompaginare le lobby del carbone. Non capisco cosa c'entra il lobby del carbone. Allora, per essere proprio corretti, però lo dico a Emiliano con massimo rispetto e con questa dialettica che proseguiamo dal tempo degli ulivi della TAP pugliesi, gli ulivi pugliesi per la TAP, l'offerta di Acciaia Italia era arrivata e prevedeva 7.800 posti e contro i 9.400 di Aminvesco. Questo quando si sono aperte le offerte. Se poi adesso Acciaia Italia rilancia dopo aver visto l'offerta degli altri, allora non ha più senso fare una gara. Cioè, tu la gara la fai perché due offrono alla cieca, apri le buste e dici: bene, questo offriva questo, questo offriva quell'altro. L'offerta unica arrivata in gara di Acciaia Italia prevedeva 7.800 posti, quindi non è vero che ne prevedesse di più. Onestamente, numeri alla mano, che adesso abbia rilanciato aumentando i posti a 9.800, lo fa dopo aver visto l'offerta degli altri. Che la Puglia non rientri in questa quota, beh, insomma, sapete, il problema di un gruppo come Ilva è un problema di carattere nazionale. Dopodiché la Puglia ha avuto tutti gli anni, non Emiliano che non c'entrava niente, c'era l'ex governatore Vendola, per capire cosa stesse succedendo con la gestione Riva del gruppo Ilva, per cui insomma e ci furono anche accordi. Non è vero che la regione non può nulla nel momento in cui lo Stato si fa garante della continuità aziendale, cerca un compratore e il Tribunale di Milano ottiene 1.300 milioni da Riva, è chiaro che tutta la pertinenza della vicenda diventa di carattere nazionale. Ma non è vero che prima non si potesse fare qualcosa negli anni passati. Comunque grazie anche a Domenico Palmiotti. C'è il traffico e poi il nostro spread e questa idea delle elezioni a settembre-ottobre. Molti ci chiedono le reazioni dei mercati. Guardate, oggi lo spread è a 198 punti, quindi identico sostanzialmente a quello di venerdì. Con la Spagna siamo a 70 punti di differenza, cioè 128 la Spagna, e il motivo si chiama non solo elezioni, ma anche un'analisi della nuova legge elettorale. Ma, ripeto, non esprimo giudizi sulla legge elettorale, dico semplicemente che vista la forte proporzionalità, forte, diciamo, sistema proporzionale, viene vista da chi ci guarda all'esterno come altamente a rischio di non creare una maggioranza stabile e di arrivare a una coalizione molto incerta. Il tutto, e qui sì, possiamo farlo notare come dato di fatto, il tutto mentre il paese dovrà poi, il governo nuovo dovrà poi affrontare, se si voterà a settembre-ottobre, rapidamente la legge di stabilità, la legge di bilancio, per non andare nell'esercizio provvisorio. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La mia opinione personale conta nulla. Io ho sempre detto fin dal primo giorno, da quando ci è delineato l'accordo, che secondo me è benissimo l'accordo, perché le riforme elettorali si fanno con il massimo accordo possibile delle forze politiche, però poi esistono anche le esigenze del paese. Si può tranquillamente votare a marzo o ad aprile, non cambia nulla. Qualcuno mi dice: il governo è eletto, il governo è illegittimo. No, perché noi in Costituzione votiamo il Parlamento, e il Parlamento è stato votato, quindi da un punto di vista proprio giuridico non è un Parlamento illegittimo. Che poi ci sia state un insieme di crisi di governo in cui ci siano dimessi il Presidente del Consiglio e all'interno di quel Parlamento si sia trovata una nuova maggioranza, un nuovo governo, è verissimo, ma la Costituzione ti dice che noi eleggiamo non i governi, abbiate pazienza, eleggiamo i deputati e i senatori. Traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, sì, molti mi rispondono: guardi che è chiaro che la maggioranza non vuole assumersi la responsabilità di varare una manovra di stabilità, una legge finanziaria così pesante, o comunque pesante, non è che le altre fossero leggere, come quella che dovremmo varare a ottobre-novembre, quindi si lascia il cerino al nuovo governo. Sì, altri però mi scrivono: guardi che poi aprire, insomma, andare a elezioni senza legge di stabilità può essere penalizzante per i partiti che in questo momento compongono la maggioranza di governo. Lorenzo Codogno, già capo economista del Ministero del Tesoro a Roma e fondatore della LC Macro Advisor, oltre che visiting professor alla London School of Economics, in collegamento con noi da Londra. Buonasera Codogno e bentornato. Buonasera. Riesce a farci capire, a far capire a tutti che cosa è che dal punto di vista dei mercati e degli investitori, non vuol dire solo la borsa, piace di meno di una scelta di andare a elezioni? Voglio dire, Renzi ha detto a elezioni in quel periodo vanno anche Austria e Germania, nessuno tira fuori il tema dell'esercizio provvisorio o della manovra finanziaria. A elezioni va adesso anche la Gran Bretagna. Perché quando le annuncia l'Italia, diciamo, si crea questa tensione, questo si storce la bocca da Londra come da Francoforte? L'Italia non è un paese qualsiasi, ovviamente con un livello di debito PIL intorno al 133% è un po' sorvegliata speciale, questo è ovvio. Detto questo, per gli elettori probabilmente votare in ottobre o votare in primavera non cambia moltissimo a mio avviso. Per i mercati finanziari ci sono dei pro e ci sono dei contro. Devo dire che si è aperta di fatto la campagna elettorale. Il punto interrogativo è se abbiamo in Italia una campagna elettorale che dura sostanzialmente quasi un anno, fino alla primavera dell'anno prossimo, oppure se dura solo alcuni mesi. Questo significa incertezza per i mercati finanziari, quindi più incertezza breve meglio è. Detto questo, il rischio molto concreto a mio avviso è che se si andasse a elezioni a settembre-ottobre molto difficilmente si farebbe la manovra, quindi si rimanderebbe la manovra. È un dramma, ma probabilmente no, perché come giustamente lei ha detto, molti altri paesi vanno a elezioni in autunno e quando vanno a elezioni inevitabilmente la manovra di bilancio slitta. In Italia questo è particolarmente complicato, come dicevo prima, l'Italia è osservata speciale, però non vedo come un dramma, quindi ci sono i pro e ci sono i contro. In questo momento mi sembra di poter dire che forse ridurre l'incertezza e andare a elezioni presto potrebbe essere un vantaggio dal punto di vista dell'incertezza e nel stabilizzare quelle che sono le aspettative. Allora, rispondo a alcuni ascoltatori. È vero che la legge elettorale con cui è stato eletto questo Parlamento è stata ritenuta incostituzionale, per questo si va a cambiare. Io parlavo in generale, quando si dice dobbiamo andare a votare perché questo governo è frutto di una nuova maggioranza parlamentare ed è incostituzionale. No, non c'è niente di incostituzionale nel fatto che un governo cada e dentro il Parlamento si crea una nuova maggioranza per sostenere un altro governo senza andare alle elezioni, perché noi votiamo per il Parlamento. Chiuso questa nota, Codogno, spezzo una lancia a favore anche dell'altra versione, cioè c'è chi dice attenzione, fare una legge di stabilità e una legge finanziaria adesso con le elezioni a marzo-aprile vorrebbe dire fare una legge totalmente annacquata, quindi meglio votare a settembre-ottobre, perché almeno poi, sperando di non rischiare l'esercizio provvisorio, ci sarà una legge di bilancio fatta da una vera maggioranza eletta e non da un governo come quello Gentiloni-Padoan, che va comunque a scadenza, dove magari i partiti di maggioranza, per non andare sotto elezione ad aprile o a marzo con tutti gli strali della legge, faranno fare una legge di stabilità tutta piena di promesse, sappiamo già, lotta all'evasione, aumento delle entrate fiscali e quant'altro, ma non lungimirante. Sì, io penso che difficilmente l'attuale governo avrebbe la forza, la capacità di introdurre una manovra strutturale importante. Però è chiaro che a volte basta almeno una piccola correzione, quantomeno per stabilizzare le aspettative. C'è un problema che non ho sottolineato prima, ma che è presente, è che con la scissione dal PD, l'articolo 1 e il movimento che ne è nato potrebbero non essere favorevoli alla manovra, soprattutto al Senato. Quindi certo, di fatto l'attuale governo potrebbe restare già impalinato, ora non avere una maggioranza. Questo è anche, quindi, quello sarebbe il male peggiore, perché non avere elezioni subito, fare una manovra e poi vedere la manovra non passare al Senato, questo sarebbe veramente un disastro. Allora, la manovra non va sprecata, ha detto Renzi nell'intervista che ha fatto col Sole 24 Ore il 3 giugno, ma Padoan da Trento ha detto attenzione, facendo eco anche a quanto ha detto Visco, che ha detto i mercati rispondono all'incertezza, ha detto guarda che pesa più l'incertezza politica che la fine del QE e quindi della politica accomodante di Mario Draghi con tassi a zero e acquisto di titoli di Stato. La situazione difficile è legata all'incertezza politica, che è oggettivo. Credo che tutti in questa sala siamo d'accordo sul fatto che è molto difficile immaginare una certezza politica su quello che sarà il prossimo quadro di governabilità, il prossimo Parlamento, eccetera. Non sto facendo, credo, nessuna affermazione degna di essere citata. Questo è un dato di fatto, anche perché quello che gli operatori di mercato, con cui mi capita di parlare spesso, dicono: non solo c'è un problema di tassi di interesse più alti, ma questo lo sapete, non solo c'è un problema di incertezza politica, e questo lo sapete, magari se ci spiegate cosa vuol dire siamo contenti. La terza cosa è che il processo di riforma in Italia si sia fermato. Questo per me è un luogo comune importante che a me piacerebbe sfatare. Quindi, se ho ben capito, Codogno, se si va a elezioni settembre-ottobre c'è il vantaggio che il nuovo governo è più credibile nel fare la manovra di stabilità e non si rischia un anno di campagna elettorale e non si rischia di avere un sfilacciamento della maggioranza per varare la legge di stabilità. Allo stesso tempo, se si va a elezioni settembre-ottobre, c'è il rischio di metterci mesi per fare, o mesi, un tempo lungo, per fare la maggioranza. E a quel punto l'esercizio provvisorio che cosa comporterebbe? Ma non sarebbe un disastro. Detto questo, dipende dall'esito ovviamente delle urne, perché se si andasse a elezioni a ottobre, ci fosse un risultato chiaro e ci fosse un governo in tempi sufficientemente rapidi, probabilmente andare anche all'esercizio provvisorio per un tempo limitato non sarebbe un dramma. Forse si riesce anche a chiudere entro dicembre se c'è la volontà politica, e se soprattutto questo governo già prepara, diciamo, la cornice all'interno della quale poi si può impostare la manovra stessa. Detto questo, è chiaro che l'incertezza è molto elevata, giustamente come ha detto il ministro Padoan, non è che ci nascondiamo dietro una foglia di fico, la situazione politica è molto complicata e al momento non si intravede una chiara vittoria di una delle parti. Se il paese è nettamente diviso in tre parti sostanzialmente uguali, ci si chiede se sia opportuno che una sola di queste tre parti governi il paese. Quindi, in questo senso, forse si giustifica anche questa ostilità verso sistemi fortemente maggioritari o con premio, altrimenti bisognerebbe andare verso un sistema con ballottaggio come Francia, un sistema che sostanzialmente polarizzi, che anche un Macron che ha il 23% dei voti riesce comunque a essere eletto e avere il supporto della maggioranza dei francesi, e che polarizzi comunque l'elettorato. Certo. E questo però è stato bocciato dalla Corte Costituzionale in Italia, quindi non è possibile. Grazie anche a Lorenzo Codogno, è veramente tutto per oggi, un auguro di buona serata da Sebastiano Barisoni, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.